è serena, fatta apposta per amare. Quando c'è la luna piena, come bello camminare. Vagabondi senza meta, non sappiamo dove andare. Con te, soli soli nella notte, con te, fischiettando una canzone, con quest'aria profumata che fa tutto palpitare. Sento nascere nel cuore tanta voglia di cantare. Con te, sotto il raggio della luna, nel ciel, mille stelle per sognare. Chi lo sa se tante stelle poi ci porteranno fortuna. Non ne ho visto mai nessuna tanto bella come te. Già qualcuno s'avvicina, già si illumina un balcone, su coraggio mia piccina, e effetto la canzone. Stringiamoci la mano, soffochiamo l'emozione. Con te, soli soli nella notte, con te, fischiettando una canzone, con quest'aria profumata che fa tutto palpitar. Sento nascere nel cuore tanta voglia di cantar con te, sotto il raggio della luna, nel ciel, mille stelle per sognare.